di Dario Ricci. Tornate a St. Moritz, le Olimpiadi della neve e del ghiaccio. Corteo inaugurale, lo apre la Grecia, antica inventrice dei giochi olimpiaci. Imparzialità del cerimoniale sportivo. L'alfabeto stabilisce le precedenze secondo le iniziali dei nomi francesi. Canada, lo stupefatto O dell'Oriente nel C della Corea, D e F come nel sillabario di Pierino. Per immortalare il sorriso di Gretchen Mariel, luminosa pattinatrice, ci vorrebbe Pindaro, il primo cantore delle Olimpiadi. Azzurri in bianco, e siamo noi, con alla testa Vittorio Chierroni, campione mondiale di obbligato. Bianca è la divisa della pattuglia. Allineatisi i 28 gruppi di atleti, carrisce la corona delle bandiere intorno al tre volte olimpico di scopolo svizzero Torriani, che pronunzia il giuramento di lealtà per la gloria dello sport. Prima gara, tra gli spettatori per il miglior posto, ma il favorito è lui. Tre le partite di hockey, primi a vincere gli svizzeri, 5 a 4 contro Stati Uniti, poi i canadesi, 3 a 1 contro Svezia, poi i boemi contro i nostri, 2 a 22, a un vero cappotto foderato dallo 0 a 16 contro gli svizzeri, 1 a 31 contro gli americani, 1 a 21 contro i canadesi, 5 reti contro 90, 90 è il numero della paura, ma noi impavidi abbiamo fatto le spese. Cronache da St. Moritz, anno di grazia 1948, Olimpiadi invernali che regalano all'Italia un'unica medaglia, ma è d'oro, il primo oro della nostra storia ai giochi tra ghiaccio e neve, e nello sport forse più spettacolare e spericolato, lo skeleton, sì, proprio quella disciplina in cui si salta su uno slittino e ci si tuffa testa giù lungo un budello di ghiaccio. A vincere quel titolo fu Nino Bibbia, un giovane fruttivendolo emigrato in Svizzera dalla Valtellina. Ebbene, oggi nello skeleton l'Italia ha trovato gli eredi di Bibbia. Due ragazzi, un uomo e una donna, che ai mondiali di Altenberg in Germania hanno conquistato nella prova mista uno splendido bronzo, la seconda medaglia internazionale del nostro skeleton proprio dopo quel leggendario oro del 1948. E allora andiamo a conoscere meglio questi campioni azzurri oggi qui a Olimpia, a partire da Valentina Margaglio. Benvenuta a Olimpia, la città dello sport. Grazie mille, buonasera a tutti. Valentina Margaglio, classe 1993 di Casale Monferrato, papà italiano e mamma della Costa d'Avorio, ben trovata e complimenti prima di tutto per questo splendido bronzo iridato. La domanda più banale, emozioni? Sì, sicuramente siamo entrambi contenti perché diciamo che abbiamo combinata grossa stavolta, era dal 48 che non si vinceva una medaglia nello skeleton. E sì, avevamo tutte e due voglia comunque di rivalsa e ce l'abbiamo fatta. Siete un po' gli eredi di Nino Bibbia, insomma. Sì, in effetti sicuramente è un grande onore. Poi per un periodo lo skeleton non era neanche più sport olimpico, è tornato nel 2002, quindi adesso comunque con la squadra e tutto stiamo facendo un ottimo lavoro e i risultati iniziano ad arrivare. Ecco, spiegaci un attimo come funziona la gara mista. Siamo divisi per nazioni, c'è un uomo e una donna. E parte prima la donna e dopo più o meno un minuto e 45 per fare la discesa e uscire dalla pista, dopodiché parte l'uomo e si sommano i due tempi. Ma siete già nel programma olimpico come prova del programma appunto di skeleton? Allora, nel mister non si sa ancora, potrebbe arrivare alle prossime Olimpiadi magari nel 2026 Milano Cortina, non si sa ancora, però già comunque vincere una medaglia a squadre facendo due discese singole comunque tutte e due dà un po' più di fiducia per il futuro anche comunque nella gara individuale prossimo Olimpiadi. Ecco, invece come ti sei avvicinata a questo sport? Mi sono avvicinata agli sport invernali nel 2012 con il Boba 2 e, anche se non mi aveva entusiasmato così tanto perché comunque se non guidi non è così, diciamo, divertente come lo skeleton. Ho riprovato nel 2015 a fare le selezioni appunto per lo skeleton, le ho passate e da lì è andata molto bene, quindi sono contenta. Però non nasci certo come atleta tra ghiaccio e neve. Effettivamente ho sempre fatto anche un po' l'atletica leggera, come mia mamma che correva quando comunque abitava giù in Africa. E sì, effettivamente è un po' strano, cioè la cosa più... per me più, diciamo, pesante è le temperature sicuramente, perché passare da correre a 25 gradi a dover spingere a magari a meno 20, forse quella è stata la cosa più traumatica di tutte. Per il resto no, a me è sempre piaciuta comunque la velocità è uno sport molto adrenalinico e ho voluto provare, è andata molto bene. Raccontaci un po' meglio delle tue origini africane. Mio papà è italiano, mia mamma è della Costa d'Avorio e diciamo che siamo trasferiti qua 30 anni fa più o meno, anzi veramente sono venuti su un viaggio di nozze e sono rimasti qui per 25 anni. E quindi sì, sono sempre stata una ragazza sportiva, anche mio fratello, perché mio papà comunque ci ha sempre portato al campo, ci ha sempre fatto fare sport e adesso sta andando molto bene, quindi sicuramente devo dire ringraziare a loro, non solo per il DNA ma anche per i sacrifici che hanno fatto per portarmi a fare atletica leggera e tutti gli sport. Immagino un po' complicato spiegare lo sport che fai ai parenti in Costa d'Avorio, eh? Diciamo che per fortuna sono stata aiutata dal telefono, così ho mostrato loro dei video. Però effettivamente all'inizio è stato un po' strano dover spiegare a parole quale fosse il mio sport, visto che appunto già loro fanno fatica a magari ad avere il congelatore a casa, quindi era un po' difficile spiegare appunto come si svolgeva. Tanto sono tornata in Africa 3 anni fa per la prima volta a conoscere la famiglia e mia mamma non tornava a casa da 25 anni, quindi sicuramente sono stati tutti contenti. E la prima volta sul ghiaccio a testa in giù com'è andata? Allora, la primissima volta non è andata benissimo. In pratica la regola principale di questo sport è quello di stare sempre bene in posizione, perché comunque quando una persona inizia ad agitarsi, si muove troppo, potrebbe diventare un pochino più pericoloso, anche se non è così pericoloso come sembra da fuori. La prima volta appunto ho battuto il mento sul ghiaccio perché mi ero scomposta tantissimo, mi si era spostato il casco che tra l'altro ho scelto anche di una taglia sbagliata, quindi la prima discesa è stata un disastro. Mi sono dato una seconda possibilità anche se avevo quasi rinunciato perché comunque la prima volta è stata su una pista molto difficile, anche se comunque si parte da metà pista, però per me che non ero mai stata in quella posizione sembrava appunto difficile. Poi le discese dopo sono andate comunque molto bene, anche cambiando pista su piste più facili è andata bene e dopo la prima gara della mia vita sono arrivata 12ª in Coppa Europa, quindi ho detto allora si può fare, ok? Sono sopravvissuta la prima settimana, posso sopravvivere tutta la carriera. Ci spieghi pure come si guida la slitta sdraiati a pancia in giù? Si guida ovviamente sdraiati sulla pancia e noi guidiamo con le spalle, appoggiandoci col peso sulle spalle, sulla slitta appunto, per girarla verso destra o sinistra, per effettuare guide un po' più decise e importanti usiamo i piedi, quindi mettiamo giù i piedi come se fosse quasi un'ancora. Comunque sicuramente il principio base è meno si frena meglio è, però comunque direzione alla slitta bisogna darla. Appunto, se no, anche se sembra molto facile, tra virgolette, visto da fuori, c'è tanto dietro, c'è uno studio comunque delle curve non indifferente. E nel mondo invece qual è il panorama dello skeleton femminile? Sì, a livello mondiale siamo più o meno sui 150-130, perché comunque che gareggiano. Perché in verità questo sport si è poco conosciuto in Italia, ma ha una grande tradizione in Germania, in Canada, persino in America. Quindi fuori dall'Italia comunque è sicuramente più dura a livello di competizioni. Più o meno la fa da padrone su questi sport appunto la Germania, la Russia e il Canada. Quindi qui in Italia tu e Mattia Gaspari siete un po' dei veri e propri pionieri. Sì, esatto. Non avendo neanche la pista in casa per poterci allenare, è anche difficile competere con persone che hanno iniziato comunque da piccole quasi, perché comunque in Italia non si può scendere fino ai 14 anni d'età compiuti, invece ad esempio in Germania già da quando sono piccoli li lanciano giù nella pista con lo scheletro appunto. E la tua giornata tipo, invece la tua annata, ecco, com'è cadenzata? D'estate mi alleno principalmente, ovviamente a secco, nel senso che preparo la spinta, e quindi palestra, campo d'atletica, perché per spingere forte bisogna curare, tra virgolette, l'accelerazione dell'atletica leggera. E quindi che appunto mi alleno 1-2 volte al giorno, e poi durante la stagione comunque si passano tante ore in pista, perché noi dobbiamo studiare nei minimi particolari ogni dettaglio della pista, dobbiamo ovviamente sapere la memoria e cercare le traiettorie più veloci per arrivare comunque meglio al traguardo, e quindi passiamo tanto tempo appunto in pista durante la stagione. Prossimi obiettivi adesso dopo questo bronzo, Valentina? Purtroppo, visto la situazione di oggi, non possiamo partire per l'America, dove andavamo a preparare il prossimo mondiale, Lake Placid, però comunque è una pista che sicuramente, nel senso, si può far bene. Quindi adesso mi godo le vacanze e si ricomincerà poi il prossimo anno ad ottobre, dove appunto prepareremo la Coppa del Mondo e i mondiali Lake Placid. E immagino che in fondo si intravedano già i 5 cerchi olimpici, quelli di Milano Cortina 2026. Le Olimpiadi, sì. Effettivamente il nostro obiettivo è sicuramente quello di fare un ottimo piazzamento alle prossime Olimpiadi, e per quanto riguarda me, una medaglia alle Olimpiadi in casa sarebbe proprio la ciliegina sulla torta della mia carriera, però incrociamo le dita per ora. Valentina Margaglio, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport, e un grande in bocca al lupo. Crepi, grazie mille a voi. Ora qualche istante di pausa, poi ancora insieme qui a Olimpia. Olimpia. Discesa obbligata. Vedrete Chierroni fare il padre putativo di Alverà, quinto nella combinata. Coutet ha vinto l'altro slalom, ma questo fa classifica a parte. Alverà segna il miglior tempo della prima prova. Malgrado la perizia, Coutet sarà secondo. Chierroni e Colò hanno rinnovato l'abbonamento alle cadute. Risulteranno trentesimo e quattordicesimo. Primo lo svizzero Reinalter, quarto Alverà. Pista alle signore. Celina è quotata per il meglio, ma caduta nella prima prova non le varrà nella seconda abbassare il tempo di un quarto di minuto. Ecco la vincitrice, l'americana Fraser. Terza in questa gara l'austriaca Maringer, è stata prima nello slalom per la combinata. Celina sorride e indomita le future vittorie. Bob a 4. In attesa dei campioni con elmo e schinieri, ecco il medico di fiducia della nostra guida slitta condotta da Rovelli. Spinta a mano per gettarsi nella spinta invisibile e prepotente del ghiaccio. Vinceranno gli americani dopo un cimento di rischio e di audacia coi belgi. Ecco qualcuno che la neve non abbronzerà. Titolo fine sull'Olimpiade invernale. Corona di bandiere intorno alla provvisoria estinzione del fuoco di Olimpia. Sam Moritz, 1948, prime Olimpiadi invernali dopo la Seconda Guerra Mondiale, per l'Italia arriva un'unica medaglia, ma è d'oro, e a conquistarla è un emigrante della Valtellina, Nino Bibbia, nello skeleton, la disciplina più ardita e spettacolare. Un campione che ha trovato i suoi eredi, pensate solo oggi, quando ai mondiali di skeleton appunto di Altenberg, Valentina Margaglio e Mattia Gaspari hanno conquistato il bronzo iridato nella prova mista. Terzo posto a suo modo, quindi storico, e dopo averne parlato con Valentina, oggi saluto qui a Olimpia Mattia Gaspari, grazie per essere il nostro ospite. Grazie mille, buonasera a tutti. 26 anni di Pieve di Cadore, Mattia, insomma, Nino Bibbia ha trovato i suoi eredi allora. Beh, direi proprio di sì, sicuramente non si potrà mai eguagliare quello che ha fatto lui, perché comunque era la prima, quindi di come prima medaglia oramai non possiamo farla. Però sì, mancava sicuramente da molti anni, però alla fine con tanto lavoro e un ottimo staff ci siamo riusciti. E direi che alla prova mista ci si è arrivati per gradi nello skeleton, giusto? In realtà c'è sempre stata la prova a squadre, cioè si spostava da anni, però c'era la presenza anche del bob maschile e bob femminile. Però con la difficoltà nel reperire comunque due team di bob, allora si è optato per, diciamo, escludere il bob e andare direttamente con lo skeleton uomo e donna, che è tra virgolette più facile, però è secondo me più emozionante, perché comunque c'è, diciamo, subito la successione del uomo donna, quindi si vede subito il risultato, ed è proprio nuova di quest'anno questo format. Praticamente parte prima la donna e subito dopo, a distanza di un minuto, parte l'uomo. E poi dopo c'è la somma totale dei tempi, subito dopo c'è l'altro team, prima la donna e dopo l'uomo, e si vede subito sia rispetto alla donna che rispetto all'uomo chi guadagna o chi perde dei due. Quindi è molto, molto interessante, molto spettacolare da vedere. Tu della coppia sei il più esperto, Mattia, diciamo così. Beh, io sicuramente sono il più vecchiotto di tutti, nonostante la mia giovane età. Cioè, giovane età, sì, ho 26 anni, però io ho iniziato nel 2010 ancora a Cesana. Ho fatto le mie prime discese in assoluto, poi sicuramente gli anni a seguire non è che ne ho fatte moltissimo, però ho iniziato a coltivare questa specialità e poi dopo alla fine sono arrivato dove sono adesso. Skeleton, che è spesso assimilato allo slittino ovviamente, ma anche al bob a 2 e a 4. Quali invece, Mattia, le tue origini sportive? Sicuramente Valentina viene dal bob perché lei ha fatto la frenatrice e quindi già mastica, diciamo, il linguaggio, quello che è del budello, che alla fine è molto diverso da quello che è una pista da sci. Ci sono delle tempistiche ben precise, delle cose, degli orari ben precisi. Io vengo ad esempio dallo sci alpino, quindi già con la velocità ci avevo a che fare, con le linee anche, quindi non ho trovato così tanta difficoltà nel dovermi mettere in quella posizione lì. Però sicuramente venire, o anche dallo slittino, venire da una disciplina simile dell'ambiente è un po' più facile, diciamo, ecco, perché uno sa già che cosa si aspetta. Ecco, c'è qualche affinità, qualche somiglianza con lo sci? Lo skeleton è una parte iniziale dove è fondamentale la tecnica di spinta, altrimenti rischi di fare grossi danni o di perdere molto. Ad esempio nello sci la parte iniziale non c'è, cioè c'è la resistenza, diciamo, poi dipende anche lì se slalom gigante oppure discesa, però a livello di muscolatura è molto molto diverso, ecco. Poi nello skeleton comunque è una fase dove devi proprio avere un controllo del corpo massimo, ovvero se muovi un po' di più o un po' di meno hai già sbagliato, ecco, quindi sicuramente scopri un movimento che è molto diverso, ecco. E tu come sei arrivato poi a questa disciplina? Beh, io sono di Cortina e la pista da bob comunque da noi è un must, cioè quando c'era, nel senso che molti campioni sono usciti da lì, quindi cioè, io abito a 700 metri, quindi per me queste discipline non sono assolutamente nuove. Io dopo lo sci mi è stato proposto di appunto provare questa disciplina, io ovviamente ho accettato subito, comunque conoscevo, sapevo cos'era, e poi alla fine mi sono innamorato sempre di più e quindi alla fine ho continuato a fare questo. Anche a te, come a Valentina, chiedo com'è andata la prima volta a testa in giù. No, allora il primo giro sicuramente non parti dalla cima, poi Cesana era una pista molto difficile, molto tecnica, partivi dalla, non so, dalla, mi pare, curva 14, ci sono 19 curve, quindi facevi sì, neanche 5 curve, però il primo giro sembra di essere a Gardaland al Tornado Blu, ecco. Quindi sì, un po' un misto di emozioni, poi dopo quando inizi ad avere confidenza di più con la velocità e con la posizione, almeno a me è piaciuto da subito, proprio il terzo giro ero già lì che dicevo, beh, quando è che si sale? Quindi sì, bello. Ecco, quanto pesa questo bronzo mondiale? Sicuramente dà una bella iniezione di fiducia, beh, sia a me che a Valentina, che a tutto il movimento. Poi per me ha un valore che non è paragonabile nemmeno a loro, perché io vengo da 2 anni di infortunio, mi sono rotto il tendine d'Achille 2 volte in maniera molto brutta, quindi per me veramente non ha proprio valore, perché è veramente oltre, cioè io non mi aspettavo di fare la mia ultima discesa della stagione e di vincere appunto un bronzo così. Quindi per me veramente è una cosa veramente fantastica, quasi indescrivibile. E dire che i vostri rivali rispetto a noi italiani sono dei veri e propri colossi, eh? Ci scontriamo con delle nazioni dove hanno dei budget assurdi, nel senso che la Gran Bretagna ha di base più di 1 milione di euro all'anno di budget, quindi già lì non si può paragonarsi. O la Germania, cioè comunque 3 catini, se consideriamo anche quello dello slittino singolo, che comunque ci scendono, sono 4, quindi è molto difficile andare a paragonarsi con queste nazioni. Comunque l'Italia è stata per anni in Coppa del Mondo, comunque si è, non dico ben difesa, però comunque ha fatto il suo. Adesso speriamo che anche con queste Olimpiadi di Cortina del 2026, diciamo, ci sia un bel boost per tutto quello che è il movimento nostro, dello skeleton, che slittino, che bob. Speriamo intanto che i giochi di Milano Cortina 2026 permettano di ripristinare la storica pista proprio a Cortina intitolata all'asso del bob Eugenio Monti. Esattamente, esattamente. No, quello sarebbe veramente il sogno di tanti anche qui di Cortina e di miei compaesani, perché alla fine è un indotto che ti porta a fare determinate cose. Poi al giorno d'oggi le piste vengono sfruttate in maniera estremamente intelligente, si può organizzare molti tipi di gare, di competizioni, quindi c'è una struttura che si può sfruttare molto bene al giorno d'oggi. Obiettivi a questo punto? Noi come disciplina abbiamo i mondiali ogni anno, quindi sicuramente fare il mondiale al migliore delle possibilità, quello sarebbe un ottimo obiettivo, e anche la Mixed come è successo quest'anno. Poi sicuramente il prossimo anno è l'anno preolimpico, quindi lì potremo testare la pista di Pechino e poi da lì appunto vedremo un po' come è questo tracciato e poi sicuramente le Olimpiadi del 2022 a Pechino. E allora, Mattia Gaspari, anche per te in bocca al lupo, sempre a testa in giù, mi raccomando, e grazie di essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie mille, grazie a voi tutti, buona serata. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.